sono piccoli più fanno i grossi. Quelli vuoti si riempiono la bocca di gossip. Quelli insicuri fanno i duri, fanno i tosti. I peggiori mostri li trovi nel buio nascosti. Tutto ritorna, te l'hanno detto, tutto al rovescio, come allo specchio. È un vecchio detto, il conto torna. La vendetta è donna, lei è sempre in forma. Si apre la porta, risposta pronta. La pistola in borsa, sorriso sulla bocca. È causa effetto, scende e sale. Le va da un letto all'altro, cercando l'amore del padre. Tutto torna con gli interessi, come tutti che ritornano per interessi. Quello che va, effetto boomerang, ritornerà con un boom boom bang. Tutto ritorna, anche se non lo vuoi. Non so dove né quando, ma dall'alto. Tutto ritorna in un modo o nell'altro. Perché tutto ritorna, ritorna, ritorna. Tutto ritorna, anche se non lo vuoi. Non so chi è al comando, ma dall'alto. Tutto ritorna in un modo o nell'altro. Ritorna, oh. Tutto ritorna, te l'ho già detto, come l'amore che ricevo il mio concetto. Tutto ritorna come all'inverso, la linea della vita è fatta a cerchio. Io vedo la luce solo quando è notte. Tutto ritorna, le bugie hanno le gambe corte. Occhio per un occhio, il motto della gente. La strada busserà a casa del presidente. Perché tra queste strade nessuno vede il cielo dalle vostre grate. Non chiedo una carriera, noi chiediamo una carriera. Una bandiera vera da poterne andare fiera. Siamo il futuro, senza futuro in mente. La droga ammazza i giovani, il governo lo fa lentamente. Siamo figli dei vostri padri, allora ruberemo a casa dei ladri. Tutto ritorna, anche se non lo vuoi. Non so dove né quando, ma dall'alto. Tutto ritorna in un modo o nell'altro. Perché tutto ritorna, ritorna, ritorna. Tutto ritorna, anche se non lo vuoi. Non so chi è al comando, ma dall'alto. Tutto ritorna in un modo o nell'altro. Ritorna, tutto ritorna.